Rieccoci, Mortal Kombat Round 8. No, siamo al 7, mi sa. Siamo al 7. Fatto sta che, insomma, oggi sarà una puntata speciale, la seconda dedicata a Roma Caput Mundi. Abbiamo qui in sala un amico, nonché ospite d'onore, Gijuan, che anche lui, insomma, ci ha passato diversi brani di questa playlist odierna e ci ha dato una mano a costruire questa puntata con la sua sapienza, con la sua knowledge, esatto, sull'arte del rap, specialmente quello italiano. Esatto. Ricordiamo le cose d'ufficio. Che ci trovate in streaming su wombat.noblogs.org, che potete scriverci apposta wombat@insiberia.net. Twitter, l'account Twitter è Wombat Radio e l'account Facebook è Radio Wombat Firenze. Invece, per quanto riguarda la trasmissione, il nome nostro è Mortal Wombat. Ci trovate su Facebook sulla pagina, appunto, Mortal Wombat. Ci trovate nelle strade con i nuovi adesivi che infesteranno le città italiane. E partiamo subito col primo pezzo di questa puntata. Partiamo, no? Subito. Abbiamo scelto un pezzo che introduca un po' la puntata. Un pezzo dei Roma All Star, ovvero una grande banda di gente di Roma, estratto dal disco di Mr. Phil, Poteri Forti. Tra l'altro è uscito ieri il nuovo mixtape di Mr. Phil, mixtape, e su Welcome, su Welcome to the Jungle l'anno passato, una bomba, sentitevelo. E mentre questo pezzo è tratto dal disco, appunto, Poteri Forti, uscito nel gennaio 2013. E vabbè, Mr. Phil c'è poco da dire, lo conoscete tutti, uno dei beatmaker più apprezzati del nostro panorama. E Poteri Forti è il suo terzo album. E il pezzo come si chiama? Il pezzo si chiama Uno Contro Uno. E questo pezzo è praticamente il rifacimento in chiave moderna di Combattimento Mortale 1 dei Flaminio Mafia, che quindi ha presente delle i suoni del gioco Mortal Kombat, da cui appunto anche noi abbiamo tratto ispirazione. E sentirete Round, sentirete Fight e sentirete appunto molti rapper incazzati che sparano le quindi ce lo dedichiamo, questa è Uno Contro Uno. Mr. Phil. Uno contro uno. Roma batte tutti. Uno contro uno. Roma batte tutti. Uno contro uno. Roma batte tutti. Uno contro uno. Round one. Uno contro uno, Roma batte tutti. Per batterci a noi, mi servono i trucchi. Tipo alla PlayStation, non faccio rap fashion. Oh, c'è vorrò al rap al rovescio. Satana che chiama nella giungla urbana. Io gli rispondo al volo, manco fosse una puttana. In metropolitana, fin da pischello in giro. Scrivevo cose sul vetro, con lo sgravello e sparivo. Yeah. Sta vita è piena di guai, piena di stronzi. E tocca piagli a mozzi, di come su gringa Iron Mike. Le botte sono sempre di più quelle che prendi che quelle che dai. Tolgo macchie del mio sangue dalle Nike. Non resto muto, fatti avanti cornuto, che so a memoria la storia della sacra scuola d'occulto. L'infame lo vedo subito, c'ho fiuto, provo rifiuto. E sente meno merda, è solo perché me m'hanno bevuto. Le bende con i vetri sulle mani, pronto per lo scontro senza sconto tra titani. Qualcuno non vedrà sorgere il sole di domani, perché lascerà tutto, compresa la sua vita sul tatami. Le gambe che si muovono nervose, irrequietezza, accresciuta percezione delle cose. La pace nei miei occhi, ma dentro vive la guerra ed è tibia contro tibia finché non andrai per terra. Ho detto scrivere fa parte dei guerrieri, nel dojo dei quattro criteri, crescono e si addestrano le vieri. La fiamma tua si è accesa ieri, legittimo ma al massimo ci squadri la cera sui candelieri. Sto sopra il ring come Rocky, la calma dentro come Toki, tramando un verbo che è fatto per pochi. Sto flusso non lo blocchi, sulle otto barre guerre, squaino scimitarre perle, mando a raccogliere i cocchi. Uno contro uno qua è guerra, è una sfida che ti afferra, è un altro contro colpo che si sferra. Risolvo la faccenda sopra il palco e Street Fighter vai dritto a terra. Poco prima che il tempo scade rimane la sconfitta incisa negli occhi, rabbia che entrava a sbocchi e l'ansia con cui te strozzi e i rimorsi rimpiazzano errori fatti in attacco. E mo che t'ho fatto fuori, avanti un altro. Uno contro uno, Roma batte tutti, Fez d'arco, ciucciame il cazzo, Giuda fella stronzo, questo è il fatto. Impara a regge, colpi gladio dentro al Colosseo. Farete il cazzo, ma davanti a me sei un pigmeo. Sito, uno contro uno, ma la proporzione è sempre 5-1. Io figlio di nessuno, penso a star sicuro. Me batto un giro a testa e te ne va a fanculo. Scimmia uccide, tu nessuno, io presente, passate e furo. Le barre, l'ultimo combattimento Mortal Kombat. Sfida finale, fatto dalle gare, Capitano Morgan. Io cotto righe, faccio male, il pizzi stoppa. Tu con due righe fai capire a tutti che sei una mignota. Non conta quanto addestramento ti è te pronto. Nell'uno contro uno sono un Raptor, Toronto. Fai conto che prima che sali la sfida la vinco solo con l'occhio. E mentre si avvicina il gong senti il tocco. Sì, ci metti poco a inquadrare il maschio dominante su sto beat frocio. Passa mermocio sul pavimento de sto street dojo. Chiama me sensei, fa un saluto e di chi cazzo sei. Io sono la fusione de Ken con Raul Correi. Se il rap fosse un'arte marziale del tipo Shaolin, questo sarebbe il colpo mortale del tipo Shaolin. Porta il tuo king, lo magno come al pastarito. A te te casca mito, a me me basta un dito se sto un bastardito. Un vincente per sempre si riconosce dall'inizio. Vivo ogni giorno come se fosse quello del giudizio. Sai che perdi le forze o rime come scosse elettriche. Lo senti che con queste tecniche io ti ipnotizzo. Fisso gli avversari, dai, dai, provatemo a fermarmi. Tu speri che mi cami, invece ho armi letali. È sempre il momento, ora vai a dargli il ben servito. Saluti da Pacino, il combattimento è finito. Uno contro uno, Roma batte tutti, dagli tutti belli farabutti. Mortal Womba! Qui il combattimento è appena cominciato, quindi state pronti, state in guardia, tenete la guardia alta, non abbassatela, al massimo colpitela. Dopo... E in questo pezzone avete sentito Ergose, Suarez, Lucci, Prisma, Sace, Fez d'Arco, Rack, Ercosta e in conclusione Al Pacino. E tra l'altro ci dice il buontone Gettone che Sace ha fatto da poco un album, si intitola Uno contro tutti. Uno contro tutti, quindi riprende uno versus uno e si mette un po' contro tutti in pieno stile. Si mette contro tutti, Sace che ricordiamo classe 95 ma sta già spaccando il culo in tutta Italia. E poi vabbè, a proposito, anche sempre in questa canzone c'è Prisma dei Roma Underground, anche loro speriamo di vederli presto a Firenze. E sappiate che hanno fatto un disco nuovo, si chiama Amore e Odio, che ancora non ho ascoltato, ma diciamo non mi hanno mai deluso i Roma Underground. Sì. Poi lo abbiamo detto prima, questo pezzo riprende un altro pezzo che è Combattimento Mortale di Flaminio Mafia, dal primo album di Flaminio Mafia, Resta Festa Gangsta, del 1996. E le produzioni sono di Ice One e adesso Tone la trova e ce la fa sentire anche Combattimento Mortale, la terza. Ci siamo con questo Resta Festa Gangsta, combattimento Resta Festa Gangsta mortale, Mortal Womba. Round 1, fight! Sapore di sfida, guerriero della strada, sempre pronto attento a qualunque cosa accada. Mistico, ostico, esplosivo come il plastico, tecnico, mi difendo usando un po' di jet and go. Io sono animale perché Roma è uno zoo, e rinchiuso sempre nella mia fottuta gabbia. Rappando esprimo tutta la mia rabbia, esplodo, son drago, agito la coda e sputo fuoco. Come Bruce Lee nel Colosseo, col tramonto sullo sfondo abbia inizio il torneo. Uno contro uno, Roma batte tutti, Io c'è fluido, perciò non me fotti. Se accetti, sto qui davanti a te, fino alla morte combatti. Mafioso come Frank Sinatra, vendo un po' di suono, marcio alla Flaminio Mafia. Ancora che te chiedi quando torno, da mo che t'ho lasciato indietro e sei già pronto per lo scontro, Nino. Mettici i caloni nel tuo Sony, c'ho già tutto nel bilancio, pure il conto delle vittime. Non te la piammare, è una questione d'attitudine. Sai che Benetti resta in piedi fino all'ultimo, oltre ogni limite. Eccola qua. Eccola qua, vi abbiamo dato solo un'anticipazione, perché questo è un brano che vogliamo tenerci per le puntate a venire, perché alla fine è molto importante per questa trasmissione. No, sì, scherzavo, è una minchiata. Però è importante, combattimento è importante. Mortale. Quindi approfittiamo per farvi sentire due volte combattimento mortale. Diciamo che quello che è successo ora è che c'era un piccolo errore tecnico nel file. E passiamo quindi al terzo pezzo della giornata, che invece è del 2001, di Scimmie del Deserto featuring Danno. Scimmie del Deserto sono un gruppo formato da Fats Darko, Miscio, con la partecipazione di appunto Danno. E niente, il gruppo ha prodotto solo un EP, il titolo per l'appunto Scimmie del Deserto, del 2001. Le produzioni sono di Lefkaditidis, che io non conosco, però è un bello scioglilingua. Il pezzo è Azione di Disturbo. Azione di deserto. Disturbo, disturbate sempre tutti. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. Un errore. Simi, cosa sai di me? Cos'è che poi io sto cambiando? Mi sto convertendo, in questa fine intendo un fine mondi, dopo passa piano. Ma sto salendo man mano, sta sommergendo, il resto col mio suono scende. È l'azione di disturbo costante, infiammante. Un tropicale certo che li accende, li riporta dal coma. La forza interna solo il cromosoma. Nell'azione di disturbo blocca il tuo sistema. Organizzazione, scimmie del deserto, invasione allerta. Disturbo nell'azione, nel corsata, si esalta. Robotomizza che è connesso, stringe al suo guinzaglio saggi per portarli a spasso. Un file distorto, un problema risolto. Presente troppo corto per arrivare all'incontro. È tardi per fermare lo scontro. Io pronto senza scendere a patti. Non ho scelto i fatti che ci portano ad essere i meccanismi da guerra perfetti in questi istanti. Lancio l'essenza da grana pesante. Rap tagliente, tra chi si fa del male, chi se ne intende. In vita accetta la sfida. Resta un errore di frequenze basse sul tuo impianto. Spegnilo prima che esploda. Lui fresco, quando innesco, ma diventa fuoco presto. Quando calo su te loro brusco. Eccoci, quelli che te stanno più sul cazzo. Panico in platea e odissea nello spazio. 2001, che c'è via ce l'hai davanti. Se gioca con le belle intorno ai pugni e chiodi sopra i guanti. Affasse male, ok, affasse male. Pronto per l'azione di disturbo il tuo segnale. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. Un errore. Io so fisso addosso, grosso perché un king. Kong come Donkey, giungla tipo Bonghi. No che non c'è stronchi. Blasto un altro rapper. Quando performo trasformo le tue commedie in uno splatter. Restano frammenti di ologrammi, versi di programmi. Virus come insidie, cause di tragedie e drammi. Scimmie, perché qua è il deserto del reale. Pronto per l'azione di disturbo al tuo segnale. Troppo non gira, non funziona. Deposito in cancrena. Vedo già chi scappa, allarme rosso nella zona. Suona, disturba e non perdona. Scimmie a contatto con la sua disciplina. Conoscenza prima, sabbia che rovina. Cambia scenari, confonde fotogrammi. Provocando lesioni tra i colori. Deserto dei misteri, coperto di leggende e luoghi oscuri. Visioni, voglia di sentirsi vivi, di essere incisivi. All'ultimo respiro, da 10 a 0 contro il muro. L'unica via d'uscita saprà sfruttarla per intero. Puoi contarci, è vero. Io parlo poco e quando parlo faccio sul serio. Voglia di scherzare zero. Bella Gigan, cosa non fa? Questa azione ti disturba. Ti lascia troppo poco fiato per contraddirla. Claro, mi sembra. Chiusa una porta, non puoi più aprirla. Questa è la legge della scimmia, non puoi capirla. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. Lascia che continui a chiamare il tuo suono rumore. Quello che siamo, un errore. deserto featuring Danno, uno dei tantissimi progetti super interessanti a cui Danno ha preso parte. Un unico EP, ma un EP di bombe a mano, tutto l'EP. Esatto, scimmie del deserto è quello che ci sentiamo tutti i giorni. Siamo scimmiati, siamo schizofrenici, siamo presi bene, presi male, di disturbo abbiamo... Di azioni di disturbo ne facciamo un monte. È figo perché è molto, mi sa molto di introspective questo album. Ora non mi ricordo sinceramente tutte le tracce, però da quello che ricordo Scimmie del deserto mi ha sempre mi rimembra sempre un suono abbastanza introspettivo e delle basi molto che ti fanno riflettere. Ma adesso proviamo a rimandare Combattimento Mortale. Proviamo a mandare allora abbiamo un team altro che Formula 1. Qui si è bucato, ma subito pit stop e il buon Tone è riuscito a trovarci il pezzo intero. Dai. Round 1. Fight. Sapore di sfida, guerriero della strada, sempre pronto attento a qualunque cosa accada. Mistico, ostico, esplosivo come il plastico, tecnico, mi difendo usando un po' di Jack and Go. Io sono animale perché Roma è uno zoo, e rinchiuso sempre nella mia fottuta gabbia. Rappando esprimo tutta la mia rabbia, esplodo, son drago, agito la coda e sputo fuoco. Come Bruce Lee nel Colosseo, col tramonto sullo sfondo abbia inizio il torneo. Uno contro uno, Roma batte tutti, io c'è fluido perciò non me fotti. Se accetti sto qui davanti a te fino alla morte combatti. Mafioso come Frank Sinatra, avendo un po' di suono, marcio alla Flaminio Mafia. Ancora che te chiedi quando torno, da mo che t'ho lasciato indietro e sei già pronto per lo scontro. Nino, mettici i caloni nel tuo Sony, c'ho già tutto nel bilancio, pure il conto delle vittime. Non te la vi ammare, è una questione d'attitudine. Sai che il Benetti resta in piedi fino all'ultimo, oltre ogni limite. Per me mannata a casa è diventata un'abitudine. Una parola è poca e due sono troppe, meglio che stai zitto, ci ripenserai stanotte. Per Piotta non parlate, parte Oruken, doppio calcio rotante, Attacuken, arriva giù il campione, coste rime te incanta. Fatte da parte perché il Piotta te incanta, con Turi e con Squarta, sta roba è più coatta. Taverna, ottavo colle, Roma, buia, casciata. Giù cor Flaminio, la mafia cor VH, arriva Iena Pischi e sto Iena te spacca. Ecco sto capone per i biscui, son Tommaso, cerco pelle nera, corpellato, sadomaso. Bella rude sparo, push e Max Gia, gli rompemo il culo tipo rettoscopia. Otoshi Baraku, 30 secondi. Eccomi, rude MC che ti entra come un kamikaze. Dritto dalla Flaminio Mafia, la mia base. Prima fase, una zappata, tipo Karate Kid. Segue il beat e mic, mica sono elettronico come la macchina kit. Ma di carne come Kunta Kint. Seconda fase, la più drastica, la più critica. Provano a schiacciarmi con un corso sulla natica, ma non si spezza, lo spezza metrica. Con la lirica per niente spastica, per vincere ci vuole il miracolo di Fatima. Ma il nemico ormai è sfinito, l'arbitro alza il dito perché l'incontro è finito. Round 2. Vai. Prima combo, entro, tre rime poi ti sfondo. C'avevi sogni di carriera, te li manderò al tramonto. Seconda combo, otto battute per sciarammela. Se tu pensavi di cavartela, devi da star sveglio. I cicaloni doc solo un paio, questo è il guaio. Spingo per mandarti che io è solo il re, ti senti il re. Ma non sai poi quanto mi gusta a me mandarti a casa con un bel perfetto. Bella man, sto cicalone dei talenti adesso sale. Io conto te fino alla morte naturale, Nino naturale. Cambia la voce, la metrica anche. Gli otto MC taglienti come punta di diamante. Batti, entra e scegli il tuo meglio personaggio, perché mo entra in scena quello grosso e servaggio. Che basta proprio poco, se me vuoi fa viaggià. Clicca una mezzaluna, il bottone B e poi quello A. Scarico fatality, vitality, brutality. Me devi mozzare la testa perché so immortality. Per te che non fai parte dello scontro che spaventa, del duello da leggenda, si fa brutta la faccenda. Porta stecche e metri de benda, perché sei volato, art appeto annato, per terra spalmato come ketchup tomato. Mangiato e bevuto come l'uovo sbattuto. Se chiedi aiuto te saluto, passo e chiudo, e do un altro cazzuto nel combattimento mortale il benvenuto. Il rap come disciplina per il colpo più mortale. Le rime che porto in alto nel mio dojo personale. Impara, porta i colpi ben determinati. E si te regge fatte sotto, io faccio combo elaborati. Matta, due combattono ma resta uno soltanto, un combattente dell'asfalto che spinge in alto. Combo hits combinate per fare a pezzi MC sommari. Io scaglio zero e sogno incontri alla pari, sai. È come sbattere la testa sul cemento quando assaggi il sapore del fomento. Sul colle tra me te soltanto tecniche miste, super beffa combo massa da svariate piste. Rap una disciplina come un'arte marziale. Entro, spacco, esco, routine normale per me. Introduco nuove mosse dalla scuola del colle. Se c'è qualcosa che ti brucia in petto, dai. È quello che c'è in testa, la partita è sempre questa. Tipo abbassa la tua testa, che c'è stop e staccio e basta. Nello scontro, l'incontro, le storie non le ascolto. Tanto poi sul podio monto. Volevi bastonate, proprio quelle hai scelto. Più convinto con l'attacco, dai ti vedo poco svelto. Sei spento, non senti la potenza dell'impatto sopra il beat. Il monitor trema con la sequenza delle hit. E quelle dello sparo lo sai che so pesanti, solo con due botti avanti e tutti e quattro i pulsanti. Lo so che mi senti fastidioso più dell'heavy metal. In conclusione amico, già sei fuori con la special. Yo, da Roma, combattimento mortale, questo è per voi. Taverna, stavo The Pusher, Erbenetti di Cinecittà, Iena Pliskin, Rude MC, Erbufo, Max, Mr. Jet, Sparo. You lose. Combattimento mortale, parte 1. Abbiamo decisamente perso questo combattimento se ci mettiamo a paragone con i nostri, con chi ha prodotto e ha fatto questo pezzone. Che è stato detto a fine pezzo, ma lo ripeto, a questo pezzo hanno partecipato Pusha, Benetti DC, Piotta, Rude, Gufo, a.k.a. Supremo 73, G-Max, Masito e Spario Manero, a.k.a. Il Turco. Che a e quel tra l'altro tempo commentavamo, vabbè, non so cosa volevi dire, però commentavamo le voci di quanto sono cambiate. Cioè se ascoltiamo appunto ora quegli artisti dopo anni stanno ancora a fare la stessa musica. Che cosa che volevi dire? No, io volevo dire che Spario Manero faceva parte dei Flaminio Mafia nel 96. E poi cosa volevo dire? Che qui in regia abbiamo il nostro amico che vi suggerisce e ci suggerisce, noi lo faremo, fatelo anche voi, di guardarvi un super film, un film che ha il Piotta come attore protagonista, Il Segreto del Giaguaro. Quindi noi non ce lo perderemo questa settimana, ma ve lo consigliamo anche a voi. Si parla di tutto, news, cinematografia, musica e tanto altro su Mortal Wombat. E quindi il prossimo pezzo è... prossimo pezzo, parlavamo prima di pezzi introspective e abbiamo un pezzo introspettivo un e psicologico per eccellenza. Si chiama appunto Terapia dei Circolo Vizioso, dall'album omonimo del 2007. Omonimo, non Circolo Vizioso. No, esatto, Terapia. Omonimo, okay. Terapia. E I Circolo Vizioso praticamente sono un gruppo formato, ha fatto un unico album, poi vi spiegheremo anche perché, formato da Coetz, Nico e Franz. Le produzioni del loro album sono state di Ford 78 e Sine. E niente, spariamoci questo pezzone, vai Tone! House of the Rising Sun. Un circolo vizioso segue il giusto moto. Metto nei testi il fuoco per lasciare che si freddi. Forse dopo, evitando scottature permanenti, archiviando quei ricordi che non lasciano altro che lamenti. Sogni ricorrenti lasceranno stenti come al solito. Vengo risucchiato da un turbine psicologico, ma è logico che resto in piedi. Tanto quanto è logico che a ciò che dico tu non credi. Vedo personalità celate dietro maschere. Cercavo di strapparle lei, si metteva a piangere. Sento brividi di freddo quando è vuoto il mio quaderno e vengo abbandonato dalle fiamme dell'inferno. Stringo sempre quelle due o tre persone e spingo nello stereo sempre la stessa canzone. E porto in faccia segni di una malattia. Uccido giorni neri sopra fogli come terapia. via. Porto in faccia segni di una malattia. Stringo tra le braccia giorni come terapia, senza mai scappare via. Immersi nello schifo ma felici, in fondo qui nessuno vede niente, siamo tutti amici. Porto in faccia segni di una malattia. Stringo tra le braccia giorni come terapia, senza mai scappare via. Immersi nello schifo ma felici, in fondo qui nessuno vede niente, siamo tutti amici. Pronto soccorso per la mente, immersa nelle mille una cura, mezza una e le mille domande. Morde giorni che rimangono per terra, una rima che li afferra proiettandoli dentro la guerra. I metri fatti sono ancora sotto i piedi, gli occhi sono ancora ingannati da quello che vedi. Sotto la pioggia, sotto zero, qua non è importante, a prova ad ogni tempo metto in piedi il mio muro portante. I lamenti provenienti non li sento, tendo a scordare le cazzate dopo che le ascolto. Mi riportano alla luce pochi sguardi, pochi quei momenti in cui il sole rende calmi i nervi. Alzo il volume ogni volta che mi serve, e quando vedo linee piatte dentro zone morte, rime che bucano le tempie e mi riportano alla vita grazie a terapie d'urto ad alta corrente. Porto in faccia segni di una malattia, stringo tra le braccia giorni come terapia, senza mai scappare via. Immersi nello schifo ma felici, in fondo qui nessuno vede niente, siamo tutti amici. Porto in faccia segni di una malattia, stringo tra le braccia giorni come terapia, senza mai scappare via. Immersi nello schifo ma felici, in fondo qui nessuno vede niente, siamo tutti amici. E mi trovo spesso a mettere me stesso sopra un foglio, cerco una valvola di sfogo e se mi fa stare meglio. La mente è l'elemento che produce i miei pensieri e che mi induce in questo mondo alternativo. In tutto quel che scrivo c'è qualcosa che non conoscevo, ed è una parte di quello che credo e spero. E nei momenti difficili che vivi, metti a tacere i tuoi complessi riducendo i tuoi interessi a zero. Si vedono gli effetti sul comportamento, non lo capisci che sputando fuori il tuo veleno già stai risolvendo. Non ti diverti a danneggiarti gravemente, ti chiedi come cazzo hai fatto fino ad ora a far finta di niente. Ormai iniziato e non ne posso fare a meno, il circolo vizioso gira, non esiste un freno. Turbe della psiche, doppie personalità, mi trasformo spesso, necessito di sanità. Porto in faccia segni di una malattia, stringo tra le braccia giorni come terapia, senza mai scappare via. Immersi nello schifo ma felici, in fondo qui nessuno vede niente, siamo tutti amici. Porto in faccia segni di una malattia, stringo tra le braccia giorni come terapia, senza mai scappare via. Immersi nello schifo ma felici, in fondo qui nessuno vede niente, siamo tutti amici. Terapia, circolo vizioso su un super beat, House of the Rising Sun. Esatto, una terapia è quello che servirebbe a tutti noi tutti i giorni, ma purtroppo queste cose sono riservate a un pubblico, cioè non a un pubblico, scusate, a gente coi soldi. Quindi noi ci accontentiamo delle terapie musicali, delle terapie fatte di birrette e cazzate con gli amici. E niente, scusate. Sono arrivati invece i nostri ospiti. Dici un po', Bulletta, chi sono questi ospiti di Abbiamo Florence qui Town? Mio e il suo producer Astro Kid. Ma gli daremo parola dopo, ora si sistemano, si fanno una birretta anche loro. E li introduceremo dopo avervi passato il prossimo mix. Il prossimo mix è di un super gruppo di Roma, i Broken Speakers. Broken Speakers, che hanno segnato la storia di Roma e lo fanno tuttora. È un gruppo tra l'altro formato dall'unione nel 2007 dei Circolo Vizioso. Questo è il motivo per cui si diceva prima hanno fatto un solo album, i Circolo Vizioso, e Yuna Bombers, ovvero Lucci, Ube e Ford 78. E hanno iniziato nel 2007 appunto con un EP che si chiamava Featuring Lucci, che praticamente era un circolo vizioso con il solo Lucci. Mentre noi vi andiamo a passare un mix proprio di produzioni dei Broken Speakers. Sì. Tra l'altro appunto ci ricordiamo perfettamente la prima serata di, almeno la prima serata di, credo una delle prime serate di Broken Speakers a Firenze, al CPA, e insomma la rete dei collettivi a quei tempi spingeva il rap romano. Comunque il nostro mix di oggi parte con la prima canzone, featuring, che è un featuring con Danno, dall'album che si chiama L'album del 2008, primo album dei Broken Speakers, ed è Cattive Notizie, una figata, anche una figata di video, e, insomma, ha segnato la storia di questo gruppo. E il secondo pezzo invece è una chicca del Secret Mixtape volume 1, sempre del 2008, di Lucci e Turco, si chiama Talk Back, è dedicato a tutti quei pezzi di merda che ti parlano alle spalle. E poi un terzo chiuderemo pezzo, questo mix con My Guard Dives Indietro dal Secret Mixtape volume 2 del 2010, e in questo caso le produzioni però sono di DJ Ceffo, ma noi abbiamo DJ Tone. Sì, Ciclo Motta sul ring con Broken Speaker, e sono Cattive Notizie. Sono cattive notizie da ogni fonte, su ogni fronte, interno, esterno, qua l'inferno è lungo tutto l'orizzonte. Le immagini mi gettano in voragini profonde, con un senso di vertigine che mi confonde. Segnali di disturbo intanto dal centro del potere, continuano a gonfiare il conto di chi fa il loro volere. Armati di un esercito di servi di mestiere, che per due spicci in più, tutti pronti a non voler sapere e non vedere ciò che capita, ciò che succede. Tanto la gente crede a quello che uno gli ripete, fregati dalle ideologie e dalla fede. Per questo ancora insisto e faccio ancora buchi nella rete, e non patteggio e non concedo e non tifo. Io sputo rime solo per dire ciò che mi fa schifo, tanto questa mandata quanto quella precedente. Un altro giorno, un altro giro di notizie cattive come sordo. Cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Circolo vizioso, broken speaker, siate senza fede, non ci credo alle stronzate che dite. Un 5 ogni member che mi segue, a colpi di macete nella folla che ammazza e non te lo chiede. Sotto il segno dell'ariete c'ho la testa dura, malato ancora senza cura, prova d'armatura. Non faccio scuola, sputo rime, non state nel mio cuore, porto cattive notizie a chi non le vuole. Benvenuto tra chi muore nei giorni feroci, inizia il conto alla rovescia a partire da 10. Il suono crudo dei miei amici viaggia 10 nodi a lungo un destro alle narici. Se ci incroci metto le mani dentro i piani, all'aria dei tuoi schemi ho un regalo in esclusiva per tutti gli infami. Brutti scemi, avanzo senza freni finché cedi, resto in piedi finché crepi, che cazzo ti credi? Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Che vuoi sentirti dire? Che vivo per morire, che quel che faccio a me mi salva e non mi fa soffrire. È il circolo dei vizi che ti avvinghia nelle spire, tuoi giudizi dietteli se tanto tu non vuoi capire. Io faccio il rapper che mi fa stare su in un mondo che va giù a fondo e porta solo bad news. Refuse to lose come Chuck D, nemico pubblico su un beat. Circolo vizioso e luci, dice Sine Hit. C'ho mille cazzi nella testa e penso a tutti, questo mondo può ridurti a niente se non reggi gli urti. Io penso ai torti che ho subito, ai furbi col sorriso, lo sguardo falso di un falso amico. Brutte notizie per chi pensa che porgo la mia schiena per lavarmi la coscienza o per convenienza. Vivo bene pure senza e di conseguenza do notizie pessime senza clemenza. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Cattive nuove sulle pagine del mio giornale, è un altro infame che ha a che fare con un mio compare. E mi fa male dentro vedere teste sul cemento e scoprire che era merda ciò che c'era dentro. Lo sai perché non credo e spesso poi mi chiedo, come se parlo al cielo lui mi risponde a zero. Lo sai come la vedo, spesso io vedo nero, perché ci sono solo bad news, non mi piego. Per caso vuoi che smetta col cazzo e guerra aperta, rime e bombe a mano, fucile e baionetta. Ho gente da tenermi stretta, tu aspetta. Se niente gossip, solo cronaca in diretta. C'è troppa merda che inietta veleno e sto serio. Io lotto con sta musica per dirti il vero, non stendo un velo se ho a che fare con le tue cazzate. Io sto fra quelli che rimangono se ve ne andate. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Con una nuova trama per voi, mica un remake. Un toro scatenato come Jake, in missione come Snake. Cancella dalla tua cartella i fake. Troppo serio, man, caro come lo Yen. La comitiva del muretto splasta la tua gang. Arrivo nella gem, con la posse guasta feste. Ci basta feste, con un beat per le rime d'este bestie. Un'altra strofa taglia teste, e so che non ci credereste se non ci vedeste. E queste storie sono provare per credere. Questo è il suono di chi possiede solo cenere, ma con le mani vuote, con la testa alta, senza banconote, questo rap scuote e brucia la carta. Scalda il cuore freddo di una testa calda, con un'idea in mente che ovviamente resta salda. Dal tramonto all'alba, dall'alba al tramonto, racconto a chi ascolta e mostro a chi guarda. Il tuo filone gangsta va contro la mia banda. Nobody talk back, la mia gente te ci manna. Yes, yes, suspect, motherfucker. Luci, broken speakers.com, Castelotte, crash in faccia. Qua, se mi nomine su ogni traccia, se scrivo le mie rime nella gente, chi le sente mi minaccia, ma la gente parla, è inutile fermarla, viene a galla, la verità, sì, devi affrontarla, sì. Non ho il Cayenne, non lo voglio, non passo l'autostima, ma se i soldi che c'ho nel portafoglio, no, io c'ho l'orgoglio a darmi forza, sì. È un gruppo di persone che mi ama, mi sostiene, mi supporta, parlami alle spalle, tu, raccontami le storie gangsta, sì, però dai, ti prego falle, mostrami gioielli, vestiti, capelli, coltelli coi diamanti, così, così mi stendi, luci, confronto a te una nullità, ma la differenza sta nel fatto che racconto solo la realtà, e la mia gente già lo sa, porto l'image in città, voi parlatemi alle spalle, io sto. Belli regà, mixtape segreto volume 2, quindi fatevi i cazzi vostri, noti da nessuno, questo è il Simo CDP, mando un bacio a Sceppo, Arco e Sarni, Quar Franz, pure a quo stronzo del Luci. Belli regà, struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way to walk around it, to put it behind me and never look back again. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way to walk around it, to put it behind me. Io vorrei sapere dove andare, capire cosa fare, lottare per amare dove l'odio sale. Ed è normale che se poi mi guardo indietro vedo tutto ciò che ho fatto e mi spavento, ma non cedo. In questo mare tu insegnami a nuotare, voglio andare dove l'aria è più pulita per respirare. Guardare avanti, non tornare indietro mai, provare ad imparare da ogni cosa che fai. Non ascoltare mai la voglia di scappare, già lo sai. È solo amore se amore sai dare. Un giorno nuovo, di nuovo dovrò soffrire, sì. Dovrò trovare un altro modo in questo mondo per uscire. Lo so che qui niente è come sembra, la gente si lamenta, la calma quando arriva sembra una tormenta. Ma a volte sembra che sia tutto come prima, io ci proverò a salvarmi, torno sempre dalla mia regina. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way to walk around it, to put it behind me and never look back again. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way to walk around it, to put it behind me. Ok, ma guardarsi indietro, prima regola, capisci? Per questo c'ho una scritta tatuata e recita resisti. Ho una cura per guarirmi gli occhi tristi e non confonderla con quella tua che fa venire gli occhi pisti. Ho materiale per campare gli analisti, una pazienza naturale che fa gara coi buddisti. Tu, e tu capisci che mezza sti pori cristi, quelli che ce l'hanno fatta col cazzo che l'hai più visti. E io mi lascio tutto alle spalle, le vecchie foto so gialle, non trovo neanche un motivo per riguardarle. Mo c'ho la forza per piegare le sbarre, altre. Ho la testa per pensare le cose, le mani per farle. Proietto l'ombra sull'asfalto, intanto penso un modo per svoltare. Proietto la mente più in alto, grazie alla donna che c'ho accanto, ai fratelli sul palco. Non mi guardo più indietro, questo è quanto. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way to walk around it, to put it behind me and never look back again. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way to walk around it, to put it behind me and never look back again. Non riesco più a stopparle, metto a fuoco le immagini. Fossero fatte immagini, come potrei strapparle? Prendo meno fiato, ritmo serrato sul tempo. Ogni ostacolo lo sventro come il mio passato. Chi si fa scudo dai problemi dura molto poco. Chi si è fottuto fra i rimedi e non c'è cura al vuoto. Chi pensa di star fuori dagli schemi, di uscirne fuori in piedi, non ha capito come va sto gioco. Ed ogni volta che scappo, ed ogni foto che strappo, non cancella il mio passato di fatto. E stare rilassato, no, non è stare fatto. Scrivo per non diventare matto, non so il punto d'arrivo ma so da dove parto. Non giro in una limo come il video che ho fatto, e scrivo mentre stringo il mio futuro nel palmo. Per farlo io avanzo senza mai voltarmi indietro, questo è quanto. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way to walk around it, to put it behind me and never look back again. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way. Walk around it, to put it behind me, and never look back again. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way. To walk around it, to put it behind me, and never look back again. Struggles on my block need to stop today. If only someone could show me the way. To walk around it, to put it behind me. Never look back again. Broken speakers. Vi è piaciuto questo mix? A noi sì. Infatti noi stavamo sì. Tutti col brachia neck sul collo e, insomma, stavamo muovendo le nostre teste. Tra l'altro i Broken Speakers si sono sciolti, se non sbaglio, nel 2012. Ma quest'anno, per i 10 anni del progetto. Ah, è vero, Broken c'è un seratone tra poco a c'è Roma, un no? Seratone, a Roma, seratone a Roma. A cui noi vorremmo andare se ci sapesse un po' di cash per muoverci, ma vedremo. Niente, qui si scaldano gli animi, si accendono gli spini e la birra comincia a fare la sua ebbrezza nelle nostre pance. E quindi presentiamo gli ospiti della rubrica Florence, come ogni settimana. E questa settimana chi abbiamo? Astro Kid. Perfetto, perfetto. Allora, insomma, cominciamo un attimino. Come tutte le settimane faremo sentire dei pezzi live, dei pezzi registrati e, insomma, ognuno è libero di venire qui quando vuole. Questa regia sarà sempre aperta a tutti, tutta la scena fiorentina. Passiamo un po' alle prime domandine. Vai, presentatevi un attimo e poi si comincia. Io sono Astro Kid, mi chiamo Giovanni e ho iniziato a usare, a produrre al computer quando avevo 9 anni. Poi ho sempre prodotto basi e niente, da un po' ho iniziato a trovare un po' la mia via. Io invece sono Nino, in arte invece nella verità Antonio. E mi diletto, diciamo, nella vita, mi piace fare rap perché, diciamo, mi rilasso, mi alleno un po' dalla vita quotidiana. E noi siamo gli speaker di Mortal Wombat e ci scordiamo sempre di fare accendere i microfoni ai nostri ospiti. Era già successo la scorsa volta e riproponiamo anche questa volta. Bene, bene. E da quanto hai iniziato, Nio, a fare rap, il tuo progetto rap? Diciamo che la mia prima canzone l'ho scritta l'ho registrata nel 2013, quindi 4 anni fa. Diciamo che era una cosa abbastanza, non infima, però a livelli abbastanza bassi, ovviamente, perché era la mia prima canzone. Poi ho continuato a scrivere, ma ho smesso di registrare per un monte di tempo, fino all'anno scorso. e che ho ricominciato a scrivere un po' di testi, perché ho conosciuto Jova Astro Kid, che mi ha cominciato a produrre basi, a ospitarmi nel suo studio, a registrare, e quindi non l'abbiamo cominciato questo progetto. E diciamo, una cosa che vorremmo portare noi a Firenze è la musica che ci piace a noi, che la musica che ci piace a noi è un genere, è un sottogenere, se così si può chiamare, che sarebbe la lo-fi, che è praticamente il genere che produce appunto lui. Sì, forse lui comunque è una cosa, no, non produco da quando ho 9 anni, ma produco da 9 anni che sono dentro noi. Ok, ok. E allora, che ne pensate se partiamo subito in gran pompa? E cosa vuoi fare? Vuoi fare un pezzo? Vuoi farci sentire un pezzo? Sì, vi faccio sentire qualcosa. Un pezzo, si chiama Falcor. Ok, quindi un live? Sì, live. Un pezzo è uscito da poco. Ok, DJ Tone, sei pronto? Noi ci siamo. Con la sua testa dice sì ed ecco il pezzone. Il mio cervello rilascia dopamina, serotonina, musica psicotropa, psicattiva, storia infinita, che ghigliottina, lobotomia, cura corpi morti verso l'eutanasia, volo via con Falcor verso questo spazio, chiede se sono stanco, spingo le vai a nastro, leggete contrappasso, sorriso contraffatto, giro con mastro astro, campioni in alabastro, non ci capisci, forse è meglio così, non ci colpisci, torno a fare le musiche, non ci convinci, siamo tristi, Coca-Cola e whisky. Scusate, ci sta un attimino di... Scusatemi un attimo, se si può ripartire ci sta un attimo di blackout. Tone rimanda il beat, questa è Mortal Wombat, è il bello del live in diretta. Esatto. Se no saremo in differita registrati e questa trasmissione ci farebbe schifo a noi che la facciamo. Il mio cervello rilascia dopamina, serotonina, musica psicotropa e psicattiva, storia infinita, che ghigliottina, lobotomia, cura corpi morti verso l'eutanasia, volo via con Falcor verso questo spazio, chiede se sono stanco, spingo le fai a nastro, leggete contrappasso, sorriso contraffatto, giro con mastro astro, campione in alabastro, non mi capisci, forse è meglio così non ci colpisci, torna a fare così non ci convinci, noi siamo tristi, Coca-Cola e whisky, qua quando passano gli sbirri, stavo dire di ordine che non c'è mai stato, bere vita, stemmettine, gli spacchiamo il cane, le mettine, darcele dopo l'amaro, produciamo un genere, uno non classificato, parlo di musica con chi mi vanno, parlo di consuetudini, di notorietà, vicissitudini, scanso l'omertà, contenuti di piatti, qua non ce ne stanno. Scusami per la prima scazzata, ma prendere un attimo. Abbiamo la nostra regia e gli ascoltatori lo sanno che è quello che è e che ci sta che salti il suono in cuffia, è difficile rappare senza sentire neanche il beat, quindi io vorrei dire una cosa che noi, cioè i nostri ascoltatori sono come i tifosi di una squadra di serie D2 e cioè alla fine sono con noi sempre, no? Alla fine, quindi speriamo di averne sempre di nuovi e ascoltateci e i problemi tecnici si risolvono e la fotta continuerà sempre. E quindi come si chiamava questo pezzo? Falcor si chiamava, come il mostro della storia infinita. Ma è già uscito? Sì, è già su YouTube, insomma, già. Sì, anche su SoundCloud. E le produzioni sono? Sempre di Mastro Astro. Ok, allora domanda, di solito ce la giochiamo in fondo, ma invece oggi andiamo a 2000, quindi ce la giochiamo subito, la nostra consueta domanda. Cosa ne pensate un po' voi della trap? Ecco, allora, va bene, allora, per, secondo me la trap è sicuramente un, cioè un fenomeno che ora come ora sta scoppiando, e io devo essere sincero, a me piace parecchio la trap. A me la trap piace, soltanto che secondo me la trap ha una cosa che, non richiedendo i contenuti ed essendo anche le basi spesso molto semplici, nel senso che comunque sia c'è una melodia molto ripetitiva, non c'è niente di eccessivamente complicato, e spesso fa pensare che sia veramente facile farla, e quindi la fa chiunque, e niente, il problema è che appunto la fa chiunque e veramente veramente veramente pochi riescono a fare un prodotto decente, secondo me. E anch'io, cioè, come Giovanni, cioè alla fine con il genere che faccio mi ritrovo comunque a non per forza sempre a rapportarmi con boom bap, anche se sono nato con il boom bap, nel senso che fino a un anno fa, cioè nel senso, ho sempre rappato su base boom bap, cioè veramente di tutto, soprattutto americani, che ne so, anche da gente un po' più sconosciuta, Mobb Deep, vabbè, chiaramente cominciamo con le basi lassie, MF Doom, roba del genere, però diciamo che in quest'ultimo anno che mi sono messo comunque sotto con questo progetto, e devo essere sincero, mi sono ritrovato anche un po' sulla trap. Ovviamente non sostengo il discorso che ha fatto, cioè, Astro, che ha detto, cioè quello che ha detto Astro, c'è tanta gente che non sa farlo, e che anche a Firenze c'è tanta gente che si crede di fare trap, quando invece veramente, cioè, è solo la copia della copia della copia dell'artista famoso che fa trap. A me personalmente mi inquieta un po' la questione del messaggio che sparisce in quella musica, però vabbè, queste sono opinioni personali e avremo modo, noi ci esprimiamo sempre, e quindi boh, facciamo parlare un altro pezzo magari, oppure c'è Burek che ha da dire qualcosa. No vabbè, che c'è un pezzo che, insomma, quello che dice "io non pago affitto", che insomma il suo messaggio Dio Cane lo dice, cioè, occupa le case e fatela prendere bene. Quindi niente, io sono quello che spara stronzate e l'altro fa il commento tecnico in caso non si fosse capito. E quindi tecnicismi up e andiamo con il prossimo pezzo, Nio? Sì, decisamente. E il prossimo pezzo si chiama... In realtà non gli ho dato un nome, devo essere sincero, perché non è ancora uscito. Boom! Quindi non so che nome dargli, ancora non è stabilito. Boh. Vabbè, un inedito, esatto, sì. Un inedito live nella regia di Mortal Wombat. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Il mio piano ne fa 21, io 19. È cambiato proprio tutto insieme alle storie. Ricordi tra la prove, liceo, scarpe 9. Le raccattavo coni che non mi chiedevo come. Misere vite si consuma per inerzia. I gnavi fanno scelte senza prendere una scelta. Senso di insensatezza, senza salvezza. Convinti di possedere chissà quale ricchezza. Sembriamo usciti da un fottuto manga, dove stanno tutto il giorno a fumare ganja. Conviviale, il clima in stanza, panicale. Vision del Valda, yo, presa della Bastiglia, no, non mi sento meglio. Pressa nella piastrina, io fumo solo pregio. Bistecca fiorentina, poi dopo amaretto. Coffin lungo la via, ogni cosa a suo tempo. Presa della Bastiglia, no, non mi sento meglio. Pressa nella piastrina, io fumo solo pregio. Bistecca fiorentina, poi dopo amaretto. Coffin lungo la via, ogni cosa a suo tempo. Impara a contare solo su te stesso. Impara a contrattare quando sei seduto al cesso. Impara a stare zitto quando non sei più te stesso. Impara a sguardo fisso, no, non trovo un compromesso. corretta conclusione, coscienza e dedizione, incendiare le persone, dritti dritti nel girone, colori nei polmoni, coloro sti sboroni, lupo sti contorni, li vedo un po' doppi. Squiseriamo sopra i vetri, spuntano gangi olandesi, squirtano sulle pareti, scemi ariuredi, parlano di graffiti, sono dei stacker, parlano di stili ma usano frasi fatte. Cielo terzo, non trovo le parole, più penso e scherzo e più volo altrove, cercando un nessun come, fracchiasso vermi e note, fracasso concetti e mode, Picasso, tequila e mone. Presa della Bastiglia, no non mi sento meglio, pressa nella piastrina, io fumo solo pregio, bistecca fiorentina, poi dopo amaretto, coffin lungo la via, ogni cosa a suo tempo. Presa della Bastiglia, no non mi sento meglio, pressa nella piastrina, io fumo solo pregio, bistecca fiorentina, poi dopo amaretto, coffin lungo la via, ogni cosa a suo tempo. Super crema fiorentina, bistecca da fiorentina, caffè, a noi ci piace il caffè corretto, come preso appunto ai fratelli di Roma, GDB, quattro amari giù al baretto con i miei cari, insomma in ogni caso cambia poco, super pezzo inedito, non ha un nome di... Non ha un nome, scusate, ma davvero non... E va bene, va bene. Prima di continuare a tartassarvi di domande, che si fa, Burek? Mandiamo un altro mix da Roma. Ma io direi che ci può stare. Il prossimo mix sarà di RH, se non sbaglio, sì, è proprio di RH, e insomma è un artistone che a noi piace tanto perché è coatto, come boh, non lo so, proprio la definizione di coatto, c'ha una voce, un flow che spaccano, e i suoi testi sono proprio belli, secondo me. E questo mix è formato dalla prima... chiaramente RH più Barra Cruda, che è il suo crew. E la prima traccia di questo mix sarà Roma intorno al nulla, featuring Bea, dell'album Vera Vita, che è un album fenomenale di rock del 2009, ascoltatevelo tutto. E poi? E poi lo mixiamo con il progetto successivo di Rack. Rack ha iniziato come solista, ha prodotto appunto l'album Vera Vita, prodotto dalla Malatesta Records del 2009, e poi ha preso parte al progetto Barra Cruda, progetto che essenzialmente è formato da Marciano, Rack e DJ Drugo. E vi andiamo a passare due pezzi da questi... due dei tre mixtape Barre Crude. Il primo è dal Barre Crude mixtape volume 2 del 2011, le produzioni sono di Oyoshe e il pezzo è un featuring con il turco Suarez e Nex Cassel. Pezzo incredibile, con anche video incredibile, sempre della TAC Produzioni, che appunto sono sempre quella banda lì, e sono riusciti, fanno davvero dei video sensazionali, quelli della TAC sono... appunto uno di questi è Ghost Dogs, questo pezzo. E concludiamo il mix con un pezzo invece estratto dall'ultimo mixtape Barre Crude volume 3, e tra l'altro l'anno in cui è uscito Barre Crude mixtape volume 3 è uscito anche un cofanetto che conteneva tutti e tre i mixtape, quindi i tre Barre Crude mixtape, e il pezzo è Lame. Ci siamo, Tone? È pronto questo mix? Lame per l'infame, dai! Roma intorno al nulla, 2008. Intorno a nulla io che ce posso fa, vivi la tua città, c'è sta un coglione che se bulla fuori al tuo bar, che devi fa, c'è sta un troione giù a Caracalla con sta pia nel culo, un numero 10 con la palla sta a giocare col muro, e fumo quella che il pischello infila nei mutande, col contante fatto in casa va alla grande, sempre a spende, vedi cresce le speranze pure di chi non s'arrende, vedi il padre dei famia col travellone, a pia col metadone, vedi la gente che si scioglie come neve al sole, raccordo Roma Fiumicino in bocco lo stradone, al sole piove, il segno della croce per chi mostra altrove. E nella fede in Dio che me fa sopportare dolore, e non le mie parole a fatte capi come e dove, mi so convinto che ha ragione chi se batte per il nome. nome degli amici che non ci stanno e de chi mo sta in prigione, il mondo a voi di tutti quanti fino a quando esplode. Finché Tony Montana dentro alla piscina cade, finché parate non gli serve che pregate, perché tutte le illusioni vengono smontate. Vengono smontate. Roma che ti culla, Roma dentro gli occhi di una donna bella, Roma è una sorella, una serata con la tua pischella, quando sa che nulla che c'è intorno è la cosa più bella. Roma è lo sfondo della vera vita, dove le strade del tuo mondo la fanno finita, il cuore della gente qua si scalda in un secondo, la gente se ne fotte del nulla che c'è intorno. C'ho un vuoto da riempire e un fuoco da piccià, c'ho il nulla che m'accerchia e non so come fa, c'ho la capacità di fatte ragionare, tengo nel palmo della mano tutta la città. Roma. E c'ho la mia realtà, e c'ho l'amici mia, e chi li tocca sa che allora guerra sia, e c'ho la fedeltà di chi cazzo sta qua, tirate sulle mani, R-O-M-A, la città che me fa capita quello che è giusto, provo gusto a romper culo e non mi serve da fare disco, la città che mi gradisco con la canna d'arcianicolo, che trovo dentro al vicolo, che io per lei mi stritolo, che sento mia più di qualunque fintogia, che toglie cappelletto e pantaloni larghi alla tua ipocrisia, che me fa piangere e ride nello stesso tempo. Porta rogne, scorri bande, riempie il nulla col suo vento. Roma intorno al nulla, Roma che ti culla, Roma dentro gli occhi di una donna bella, Roma è una sorella, una serata con la tua pischella, quando sa che nulla che c'è intorno è la cosa più bella. Roma è lo sfondo della vera vita, dove le strade del tuo mondo la fanno finita, il cuore della gente qua si scalda in un secondo, la gente se ne fotte del nulla che c'è intorno. Roma che ti culla, Roma dentro gli occhi di una donna bella, Roma è una sorella, una serata con la tua pischella, quando sa che nulla che c'è intorno è la cosa più bella. Roma è lo sfondo della vera vita, dove le strade del tuo mondo la fanno finita, il cuore della gente qua si scalda in un secondo, la gente se ne fotte del nulla che c'è intorno. Mi so addestrato per non perdere lo scontro, okay. E come un ninja salgo sopra il tetto prima del tramonto. Mi confondo nel buio quando passano qui sotto, non tengo il conto degli amici messi in mezzo da sto mondo. Training tra i palazzi fatto a fondo, niente palestra, rappo a colpi di balestra, buco il foglio, combatto pure se ne che mi riempio il portafoglio. Non gli passa manco in testa di sfidarci, no non vogliono, mi portico più tecniche qua all'octagon. Do il tempo mentre rappo a sti piccioni e non ci scoprono, li allevo mentre vivo, seguo un codice d'onore e mi viene istintivo, guarda in faccia le persone. Vivo in terra, ma è come se vivessi in guerra, ed ogni rima è come un colpo di katana che si sferra. Mangi sabbia, se un cane fantasma vai in ava scoperta, in braccia scudo e spada ottieni la conferma. Servitore di nessuno, vado avanti lentamente, superato sempre da voi lecca culo, sicuro già di un pessimo futuro, ogni giorno più convinto che sarà impossibile abbattere il muro. Giro la testa, vedo una popolazione schiava e sordo muta, non mi resta che la fuga, il tempo passa sempre più veloce contro l'ennesima ruga, l'ennesima buca che mi aspetta per l'ennesima caduta. Lentamente la salute mi saluta, lo stato che mi deruba, scrivo un'altra barra cruda, l'ennesimo debito che mi denuda, la fortuna mi scruta, non mi sei cura, prende la mira e mi sputa. Attraverso le mie lenti scure vedo degenerare il mondo, aumentano le crisi e le paure, affronto problematiche future con filosofia di strada, n'ha capito, mischiata con la gagura. Ecco il messaggio sulla zampa del piccione, c'ha scritto le memorie di un altro uomo che campa nel dolore, canta una canzone che racconta le ferite, mentre voi vi divertite ancora vaga nella dannazione. Sulla via del samurai c'è poco amore, ma c'è un fuoco che tramuta l'odio in illuminazione. Un'altra lezione dal sensei de borgata, un'altra dimensione qua la vita è amplificata, un'altra giornata, altro sangue sulla lama di una spada, un'altra trama, una katana insanguinata, né una passeggiata nel dolore, seguo un codice, difendo il mio padrone, sono un killer servitore, io c'ho le prove de quello che dico, quello che scrivo è quello che vivo, quello che vedi è tale quale paro paro, non ci credi, taglio teste per dovere, non per nella denaro. Nella scacchiera muovo pezzi bianchi verso la regina nera, mentre la Cina impera guerra, non sto con i soldati, ma coi monaci Shaolin. Uso arti marziali, armi bianche come i musi gialli. Mani, armi non dichiarate, nuovi stili di karate. Sto in meditazione sotto le cascate. Non mi interessa il regno di Dio, il mio sotto il cielo. La vendetta va servita fredda, sotto zero. Lancio stellette su starletti, il nome era Castelli. Niente avveleno, ti cade in sacche nel parquet. 2012, scambia il mio rap con quello del Wu-Tang. Nell'armadio scheletri e trofei di Kumi, te aspetto lungo il fiume. Non basterà Hiroshima né Fukushima per le radio, roba radioattiva. S'attiva fette nel mio sushi. Io codici Bushido, tu solo bullshit. Ti stendo con un colpo come costa polvere, senza revolver né pallottole. Entro dentro dal retro mentre fuori il vento mi copre sbattendo. Sono il killer perfetto, affetto. Quarto di manzo, con la lingua di Atto Rianzo. Fare gli arachiri se fossi ospite da Costanzo. La mia gente in battaglia, battle royale. Stazza da sumo, in bocca c'ho Jackie Chan. Le vostre mosse non le cago, faccio il vago. Vago da anni, adesso faccio la mossa del drago. Ho iniziato ad ascoltare questa merda nel 96. Adesso rap ho preso insegnamento da Pai Mei. Kung Fu quando parlo, sul beat esagero, senza effetti speciali, io con la bocca vi lacero. Ogni sussurro butta a terra sul tatami, cani fantasma scrivono i versi più amari. Con Ludo sulla Subaru schiacciamo a Shigaru. Flow da samurai ma con la testa da Tupac Amaru. Arrivo nella notte e non mi senti, passo dai tetti, arrivo tipo bomba nel tuo stereo a denti stretti. Cartine Ritz, la mezza canna lascia pizza, ci srubati mangio pizza, negli anfratti della città, 100.000 watt, il poster cizza, la parete mezza grigia, la maglietta della circa, la bustina, con la super skunk, niente Ralph, Mighty Max, Dyer Gas, dinosauri, super quark, barra street shark, vinili, piatti, puntine, penne, matite, appuntite, palle partite, palline, pezzi, mannite, cortile, la maglia del capitano, primo biglietto, lo stadio, le radioline, l'armadio, l'orgoglio d'essere umano, le foto nel portafoglio, sul comodino, sul tavolo, di uno spirito. Lo scattate da un camioncino sul posto. Mille facce diverse, mille droghe compresse, mille toghe, le note, generazioni depresse. Sacchetto, boccia di vino, godere d'essere vivo. Non gareggiare mai pensando di non essere il primo. Sta vita è corta, gli amici non sono quelli di una volta. È cruda l'aria, noi là fuori in cerca di una svolta. La mia filata è squarci immagini che contano. Le mie domande non trovano una risposta, no. Sta vita è corta, gli amici non sono quelli di una volta. È cruda l'aria, noi là fuori in cerca di una svolta. La mia filata è squarci immagini che contano, le mie domande non trovano una risposta, no. In testa tengo immagini come film bianco e nero, vivo i margini seguendo gli argini lungo il sentiero. Ripensa a quello che ho fatto quando stavo più fa, ripensa a quello che ho detto, grandine sopra il tetto. La mia affilata tagliano menti più delicate, noi di fuori che corriamo e saltiamo le palizzate, tra le palazzine a fare le pazzie, saltano le vetrine se passiamo per ste vie. Ogni bacio mi schiaffo, ogni carezza ogni graffio, ogni ricordo massacra, mi tiene stretto al capo. Ogni rosa poggiata, ogni bottiglia versata, ogni sasso che sbatte, che spacca un'altra vetrata. Ogni strada percorsa, fatta in auto di corsa. Faccio ogni cosa come se fosse la mia ultima volta. Sono cerotti nel cranio, tagli sopra il sipario. Sta vita è corta, faccio tutto e dopo scompaio. Sta vita è corta, gli amici non sono quelli di una volta. È cruda l'aria, noi là fuori in cerca di una svolta. La mia filata è squarci immagini che contano. Le mie domande non trovano una risposta, no. Sta vita è corta, gli amici non sono quelli di una volta. È cruda l'aria, noi là fuori in cerca di una svolta. La mia filata è squarci immagini che contano, le mie domande non trovano una risposta, no. Hey yo yo yo, siamo qui sempre a Roma City, Rome Town, Rome Zoo, e Roma Caput Mundi ci insegna che la coattaggine vince su tutti gli altri. Comunque da Roma, con gli allarmi terrorismo, con i Black Blocs in arrivo, ci spostiamo a Firenze, dove un altro gruppo di giovani Black Blocs sta spaccando a suon di rime. E vengono da Firenze, Florenza, e continuiamo la nostra rubrica su Firenze. Parlateci, fateci sentire a sto punto i vostri altri pezzi. Magari una domanda prima al producer, che prima hai detto la parola lo-fi. Sì, sì. Spiegaci un po' meglio a noi, un po', che siamo un po' i poppettari old school. Sì, direi che la lo-fi è un'evoluzione dell'hip hop che riguarda sostanzialmente soltanto il beatmaking. E prende dalla vecchia scuola, chiaramente, cioè comunque sia l'idea di partenza, comunque sia quella del boom bap, però soprattutto prende le vibrazioni che DJ Dilla, Apollo Brown, anche Nujabes, prende tutti questi tipi di vibrazione qua e sostanzialmente fa molto campionato jazz soprattutto e in tutto mandato in bassa definizione, non so come dirlo, cioè con i suoni molto grittati, poi non saprei come spiegarlo meglio, cioè comunque sia va ascoltata. Forse la cosa migliore appunto è sentircela. Quindi Nio, ci presenti il prossimo pezzo? Ti presento il prossimo pezzo che si chiama... Anche questo è un inedito. Io non mi sembra mai... Bombe inedite! Ci serve un cartello con scritto applausi. Oggi la regia è pienissima, ragazzi, non ci si sta, stiamo sudando, puzziamo, è bellissimo. E anche se qualcuno ha delle buone idee per titoli, ascoltate, consigli mi servono. Bene, questo è inedito, quindi... No, dai, scherzo, comunque potrebbe chiamarsi Matrix. E ce lo andiamo a sentire, però... quindi... Un mostro, campioni dalla posta. Su ste basi tu ci viaggi, beh ci viaggio anch'io, catapultati dentro Matrix, fermo sto giochino, frammento questi istanti all'interno di un rullino, vento, fulmini e lampi dentro al cranio di mio, sarò scemo io, voi siete tutti uguali, non credo in un dio, mi ha strappato le ali, scrivo di quel che vivo, fasi preliminari, ringrazio ogni sorriso e tutte queste mani, coronare questi sogni nel tempo più breve, esternare confusione e trovarla quiete, produciamo canoni sopra le nostre perle, condiamo pasti con ansie e riabbriere presse, siamo crucciosi come questi bad in questi pub, milioni contingenti indigesti ma coglioni rosiconi manco fanno rap, fatti da soli mo stiamo volando up, perennemente incazzato, pago pegni e perdo fiato, siamo servi di sto stato, credi sia giusto o sbagliato, credi sia giusto o sbagliato, è giusto, dai, è giusto, ragazzi, scusate un'altra volta, sempre sul pezzo però, e insomma, ma l'importante è essere sempre sul pezzo nella vita, poi se salti una rima buona, tanto chiudi, se non chiudiamo le rime si chiude le cartine, cose in ogni caso qui in regia si chiude, quindi ci sono anche gli applausi di DJ Tone e niente, allora continuiamo un po' a smongolare, vuoi farci sentire anche un tuo pezzo registrato a questo sì, punto? Sì, forse meglio almeno non... Dai, sti cazzi, presentacelo magari, questo aveva un titolo forse. Sì, magari. Questo ce l'ha, è niente di calcolato, diciamo può essere definito come intro di tutti gli altri pezzi, perché è abbastanza corto, però abbastanza, mezza strofa, però abbastanza concentrati, diciamo. Ce l'ha DJ Tone? Sì, DJ Tone ce l'ha, e questo è Mortal Womba. Altro. Altro. Altro. Altro. Altro fai sto taglio che sono scassato, sto pensando al mio passato, sono rammaricato, sto pestando il mio sbaglio, su sto beat tagliato, pesando ogni mia parola in modo dettagliato, per ogni dream vezzato, però ci raffiniamo, sono troppo ostinato, saprò che sono mancato, niente di calcolato, sto trattenendo il fiato, niente di calcolato, sto trattenendo il fiato. Eccolo lì, erano proprio due strofe. Sì, è molto. Io ero un attimo distratto, eravamo tutti sì, un po' distratti. Ma forse è meglio mandarne un altro per me. Dai, mandiamone un'altra bomba. Allora, questo invece è Unstoppable. Diciamo che è il mio primo vero progetto, lo fai, che ho fatto, quindi. Quindi ce lo sentiamo. You can play with us, cause we are unstoppable. We are the same of the past, e tocchiamo il cosmo mo. You can play with us, cause we are unstoppable. We are the same of the past, e tocchiamo il cosmo mo. Vedo gente che si chiede chissà chi. Vedo pochi fatti e tanti ego trip. Vedo gente a tratti e poi scomparir gallo. Cantati due volte, non sei Jay-Z. Inutile che te la tiri nini. Con te ci fai panini, scitto merda e parassiti. Trito erbe scolo litri. Brinda sere periodini, lincio chiese e contentini. Lancio stampi e san pietrini. Siete solo burattini, dimmi te chi ti reviri. Sono già punti coltellini, conseguito gli obiettivi. Condivisi gli spartiti, ingerito confettini e fegatini. Dimmi tu a che cosa scusi. You can play with us, cause we are unstoppable. We are the same of the past, e tocchiamo il cosmo mo. You can play with us, cause we are unstoppable. We are the same of the past, e tocchiamo il cosmo mo. Oh. Power. E qui ci dicono che di simulare degli errori per essere più simpatici. Ma noi no, abbiamo il nostro pit stop di 10 secondi fulmineo e gli errori li scoviamo e facciamo in modo che voi ascoltatori avete sempre il migliore errori. Vi siete errori. Talmente abituati agli errori che proprio non li riconoscete più praticamente. Ok. Qui c'è la nebbia. E fa freddissimo e siamo in cima all'Himalaya. E passiamo un altro pezzaccio oppure continuiamo con Roma Caput Mundi? Direi. Ma come direi volete, ragazzi, ditemi. Per noi è uguale. Vai. Dai, allora, Tone che ci dice? Facciamo cantare sti ragazzi. E boh, dai, sentiamo anche che c'hanno da dire, se c'hanno anche qualcos'altro da cantarci live qua. Boh, se sentire. No. Ma ok, i pezzi live sono finiti, ma ci abbiamo ancora un pezzo registrato da farvi sentire. Presentacelo anche questo. E questo è Killer Bee invece. Okay, si chiama Killer Bee, Killer è nulla. Bee. È un'altra. Isis. Nello stomaco si fanno sentire. Non è che ruotano e volano attorno a queste vite. Anzi consumano sample, sempre l'attenano. Anzi c'è un pretesto per diventare immortale. Per immortalare tutte ste boiate. Se son boiate per te, ma non per gli strati. Per immortalare tutte ste boiate. Se son boiate per te, ma non per gli strati. Caccio i miei combattendo, sono killer. Sto correndo, penso il tempo, stile in un po' speed. Se ma tempo sotto pressure, sopra i battiti. Interdetto il mio rispetto, questi fabbrizi. Si faccio virtù, prima avrò un gruppo più. Arco i cannoni blu, poi a giro con i blu. La mia vita grande blu. La mia vita grande blu. Non desidero amici a intermittenza. Basta 4 ore per cambiare la faccenda. Non desidero amici a intermittenza. Basta una breve a far volare ogni certezza. Non desidero amici a intermittenza. Basta 4 ore per cambiare la faccenda. Non desidero amici a intermittenza. Basta una breve a far volare ogni certezza. Neo Astro Kids Produzioni Immortal Wombat. E dalla nuovissima scuola fiorentina. Questi ragazzi sono giovani, li spingiamo perché spingono nuova. Io sono nuovissima, cioè sono proprio nuova scuola. Cioè, va, è già 9 anni. Cioè, diciamo che. No, aspetta, un attimo. Allora, io comunque sia ho iniziato a fare basi. Ho prodotto anche Tony, ma parecchio tempo fa. Quindi, cioè, non sono proprio nuovissima a scuola. Scusa, no. E con la mia ignoranza faccio mea culpa. No, no, no, hai fatto bene a dirlo. Però ci spostiamo un attimo invece alla quattanza più quattanza. Alla quattanza più quattanza di oggi, che è chiaramente rappresentata da un personaggio che ama l'NBA e se ne fotte di tutto e di tutti. Come dice il suo, appunto, ultimo, uno dei suoi ultimi singoli del 2014, fa come cazzo gli pare e fatela cicco a mano, Air Costa. E questa tutti così ci dicono dalla nostra regia, dovete fare una cicco alla mano e ascoltarvi questo pezzone che appartiene a quale album? All'album raccolta tutto tranne che Nudo e Crudo, ovvero una raccolta di tutti i cazzo di pezzi del Costa 53 tranne l'album Nudo e Crudo. Ok, sparatevelo in diretta su Mortal Wombat. Guarda che sole che è sortito nanni, che profumo di rose, di garofani e fa... Pronto? Claudio, io te sto a passare a prendere che giriamo il video. No. Quando volevo girare sto video? Stasera? No, stasera no. Famo domani, che ne so. No, manco domani, dai. Vabbè, va, giratelo da solo, fa come cazzo te pare. Ma vaffanculo. 2014, tutto tranne che Nudo e Crudo, Fit Mella, Air Costa. Come cazzo me pare, l'ho fatto fin da bambino, chiedi a mia madre, non c'è un cazzo da fare. Ci hanno provato in mille modi, però sono passati 20 anni e trovo ancora i modi per continuare a farlo. Come stippare un tarlo fisso nel cervello, non puoi, è un'attitudine, poi è un'abitudine. Come sta fissa di giocare con le lettere a incastro, non posso più smettere, ci sono rimasto sotto come un astro rotto. Un disco incantato suona come cazzo me pare a me, te pare che smetto proprio adesso, è troppo tardi per provarci. Se te sta bene, bene così, sente sta bene, staci. Ci avete facce che cambiano all'occorrenza, io sempre la stessa, orgoglio se è piena di strafottenza. Ma è sincera, è sempre la stessa, non la voglio cambiare, rimarrà sempre così, come cazzo me pare. Come cazzo me pare, come Sinatra, l'ho fatta a modo mio, se no ero morto dallo psichiatra. Mo se gioca con le carte mie, spacca il mazzo. C'ho colore servito per chi me spacca il cazzo, per chi me spacca il cazzo. Che siano femmine, ex, amici, soci, compari, parenti, froci, bisex, animalisti, moralisti, vegani, vegetariani, comunisti, fascisti, preti, guardie e vigili urbani. Non varecco più a canna me, so fatto come so fatto e non mi piacciono le chiacchiere. Se nasco tondo non moro quadrato, non me nascondo, me son boscato mezza volta da quando son nato. Non devo convincere nessuno, piace per forza a nessuno, dritto per dritto non me inculo nessuno. Capisci che intendo, c'ho un criterio preferenziale, diciamo che tendo a fa come cazzo me pare. Come cazzo me pare, l'unico modo che conosco è quello autentico, è solo in cui posso rappare. Sta scena di merda è peggio di come appare, combatto in mezzo a sta guerra, non voglio scappare. Basano i dischi su indagini di mercato, materiale avariato nel tuo prodotto confezionato, obsolescenza programmata pagata a rate dal nuovo king col nuovo singolo dell'estate. La nuova troia dell'industria discografica batte, paga il pap, è quello che avanza a chiappa, è il vecchio business tra puttane e puttaniere. Non io, che grazie a Dio faccio un altro mestiere. È più prezioso di un bel disco d'oro, capisco che non capisci perché non mi unisco al coro. C'ho qualcosa che il platino non può comprare. Io Oh, minacce dal pubblico, dicono che ci vogliono gambizzare se non diciamo quello che vogliono dire. Allora, e allora c'è qui in regia, c'è qualcuno che ci suggerisce di ricordarvi, forse ve lo vuole ricordare il Protone, no, non ve lo vuole ricordare, qualcuno in regia ci suggerisce di ricordarvi che non è proprio come dice Costa, che tutto uguale, perché fasci, compagni, tutto uguale, boh, noi non la pensiamo così. Non la pensiamo assolutamente così, però insomma capiamo che anche il background culturale di questo personaggio è diversissimo dal nostro, cioè diversissimo, non lo so, non lo conosco personalmente, però comunque Burek, noi insomma, siamo molto legati all'ambiente, all'ambiente delle occupazioni e ci definiamo compagni e... anche se questa definizione a volte Burek comprende, io un po' meno, come si può fare tutta un'erba, un fascio, insomma, soprattutto fasci. Ah no, però vabbè, i fasci sono fasci, cioè quelli, cioè non esiste. No, ok, quindi semplicemente non possiamo metterli su una parola dopo l'altra, ok, però Però si possono criticare, cioè ognuno è stra libero di criticare tutto. E quindi dalla coattaggine del Costa, dove andiamo? Ora andiamo un altro genere di coattaggine che piace molto al nostro Bulletta, perché gli manca una lettera dell'alfabeto anche a lui. Però è un grande Valerione Suarez. Valerione, dai. Lui viene da Na Capito Crew, una crew che è nata nell'anno 2000. 10. Sì, ho perso l'appunto. E niente, secondo me questo è un gran bel pezzone, perché Suarez innanzitutto purtroppo non l'ho mai visto live, però mi hanno detto è una persona con una grandissima attitudine, che capisce, insomma, e parla con tutti, non se la tira per niente, ed è un grande. E poi credo che, cioè, lui è sia producer che rapper, e fa le grafiche, fa i video, fa tutto per sé, quindi è a tutto tondo un fiero b-boy da un botto di tempo, e ci spara ste rime boom, boom, boom, boom, crudissime, e che davvero puzzano di carne. E ovviamente io l'ho scialata, perché la Na Capito Crew non nasce nel 2010, ma nel nasce 2005. nel 2005. Potevi sapere se lo sapevo, se avevo studiato. Esatto. E se il professore aveva studiato. Mister so tutto io. Ma va, sto scherzando. E invece nel 2010 è il mixtape dal quale andiamo a prendere questo pezzo, il mixtape Squadra Anti-Alternativi. E il pezzo è Io so stanco. Stanco. Mortal Wombat. Non ho fede, non ho angeli che mi proteggono. Quelli che insistono che sbaglio proprio non li reggo. La tua Bibbia non la leggo, ubriaco che cammino a stento. Mamma guarda come mi diverto. Altro che ragazzo di successo, sono un cazzo di depresso. Mi abbasso, collasso, chiuso nel cesso. Anticristo ma diverso da Marilyn Manson. Più coatto, più matto di Richard Benson. Mica scrivo se la testa è vuota. Evito stronzate quando tornano le idee, prendo nota. C'è chi copia da chi copia, va de moda e vanno a rota con qualunque idiota. Basta che se droga. Non faccio musica per i gay, no. Non attiro ragazzine con le rime. Piazzomine dal 2006. Ho fatto molte più canne io che il nonno di Sanpei. Porco, cazzo vuoi, sono cazzi miei. Vorresti essere al mio posto, ma magari ci caschi. Poi da cogli buffi più 2000 cazzi. Soldi non c'è stanno e vedemo come t'avrangi. Vedemo se poi non mangi, quanto cazzo lo rimpiangi. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. O vi ammazzo, mi ammazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo, veramente. È tutto falso. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. O vi ammazzo, mi ammazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo, veramente. È tutto falso. Gli amici miei hanno le facce sconvolte, andature storte, leggono il Corriere dello Sport. E barbe incolte, ossa rotte, le fedine sporche girano solo di notte come le mignotte. Non credo a niente, 24 anni disoccupato, nulla tenente, al massimo un altro call center. Me lo del culo penso che se sente, non posso pensare al futuro, sto presente non me lo consente. Non c'ho cavalli de battaglia, ogni traccia taglia in due l'Italia. Chi sta preso male, chi se taglia. 2000 bici scappamo come chinaia, meglio se canaglia che se come te carogna, fio de una cagna. Mi trattano da tossico, 2000 cazzi e voglia di spaccare il culo al prossimo. In mezzo al traffico di impicci ancora non se siamo mossimo. Punta su di noi, di sicuro vai contro il pronostico. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. O vi ammazzo, mi ammazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo, veramente. È tutto falso. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. O vi ammazzo, mi ammazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo, veramente. È tutto falso. Io non ti dico e non ti racconto quello che non sono. Porto avanti un suono più violento e non do il mio perdono. Sto in mezzo al campo e non so ancora quale sia il mio ruolo. Non mi proclamo king perché non ho nessun trono. Alzo un coro che in un attimo finisce, in un mondo che è un automa e non reagisce. Ci provo, è un clima che si irrigidisce. Un'auto in corsa che ti investe in pieno, anche se attraversi sulle strisce. Bestia ne ha capito sopra un palco. Sono stanco, ma corro ancora sopra questo foglio bianco. Non parlarmi troppo perché so testardo. Corro veloce, gli ostacoli manco li guardo, ma sto sempre in ritardo. Alzo lo sguardo, so che devo fare. Ingannare questa gente come in un comizio elettorale. A chi ci vuole male, un calcio al culo nella vita, un destro in piena faccia sulla strumentale. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. Io sono stanco, mi sono rotto il cazzo. sopra me, sopra me. Io sono stanco ma sono del cazzo. Io sono stanco ma sono del cazzo, sopra me, sopra me. Io sono stanco ma sono del cazzo. Valerione Suarez, Valerione, ragazzi, lo contattiamo, Valerione. Lo contatto, sento se vuol prendere parte della Ramarro Crew, insomma, famo una Ramarro cosa Crew, una cosa esclusiva per veri intenditori, eh. E cos'è che volevo dire? Valerione Suarez, ah sì, che questo pezzo era la mia sveglia, cioè io mi svegliavo dicendo io sono stanco, mi sono rotto il cazzo, quindi... Però alla fine vedo in questi pezzi un inno alla gioia a volte. Comunque passiamo invece al prossimo mix. Il prossimo mix che appunto parlerà di dei già menzionati, plurimenzionati Roma Underground, RMDG, from Roma Town, chiaramente, come sempre, come in queste puntate. E, chi sono i Roma Underground? Lo diciamo in breve. Gruppo rap romano, ovviamente, formato da Mr. T e Prisma e dal DJ Snifta nel 2008. Mr. T e Prisma sono fratelli gemelli, quindi tu stai lì in live e te li confondi ogni tanto ed è una cosa divertente. Esatto, i pezzi che vi andiamo a passare, invece il primo non è proprio dei Roma Underground, perché è precedente, se non sbaglio, ai Roma Underground, sì. No? Sì, è sì, un sì, pezzo sì. Di Prisma con DJ Insu. DJ Insu del 2007. Del 2007. Tra l'altro mi sono andato, cioè ci siamo andati a spulciare alcuni pezzi da solista di Prisma e secondo me già appunto Illo Tempore spaccava i culi come spacca i culi oggi. E questo rap rivoluzionario secondo me è un gran pezzaccio, perché e lo sentirete nel ritornello. Il titolo a me piace un sacco perché il titolo è doppia R. Doppia R, esatto. Insomma, anche tornando in tema. Ramarro Crew, doppia R. Doppia H, e doppia lo andiamo R. a mixare con un pezzo invece dell'album Solo per chi ascolta mixtape, questo dei Roma Underground del 2012, è un featuring con Coez, e si intitola? The End of Days, no senza il comunque End of Days, è dedicata a quell'anno in cui dicevamo che sarebbe, è vero, il 2012 doveva distruggersi il pianeta Terra e siamo ancora qui a fare le nostre minchiate e a sparare l'hip hop, quindi insomma il mondo non è finito. Tone ha rigenerato tutto con la sua Arca di Noè e ci sta portando giraffe, gorilla, Godzilla e tantissimi animali esotici, tra cui Roma Underground. Dai tempi dei tempi, nella mia savana c'è una guerra metropolitana con la forza urbana che ci stana, la grana in tasca, la madama se sgama una trama di Ketamo, neve bianca da Nebraska per la vostra legge inflessibile, ragazzi a 15 anni con 3 grammi hanno già una traccia indelebile, tu ci chiami associazione a delinquere, io la chiamo associazione per le idee, quelle libere, ogni mia parola equivale ad un colpo nella tua pistola, firmo su carta bianca, Prisma dalla nuova scuola, ogni mia rima va al sangue versato, rosso come la striscia dei pantaloni che ha indossato per lo Stato, la mia generazione nella manifestazione contro il marcio della mia nazione, prendere pressione, tra manganelle e cannone si spegnerà il motore, qua la questione è che è il mio branco contro il tuo plotone, la vostra azione mozza il fiato, gente stesa a terra sopra un campo di battaglia di cemento armato, noi col cappello al contrario, voi con i caschi blu da mercenario, mentre spingo un rap rivoluzionario, trovo pace solo con la gente mia, mi dà energia, scaccia la malinconia, meglio quando urliamo tutti insieme, fa polizia. La mia filosofia è così sia, trovo pace solo quando sono con la gente mia, mi dà energia, scaccia la malinconia, meglio quando urliamo tutti insieme, fuck polizia, la mia filosofia è così sia. Generale, generale, dietro la collina c'è della gente che riempie con roba verde la cartina, ma chi fa la spia non è figlio di Maria, neanche figlio di Gesù, ma figlio della polizia. Nel quartiere prendono ostaggi fra le mie schiere, dimostrando che volere è potere, se abuso di potere, ma con le pare le sere a rappare si fanno più care, dimostrando che volere è potere, campare, cresciuti in gabbia, figli della rabbia, voi con gli stivali ma soldati di sabbia, io voglio che si sappia, la gente che comprende con la mano alta, quando c'è un MC che rappa ci sta sempre uno sbirro che salta come una sirena quando passa nella massa, e chi l'ha fatta grossa c'ha la testa bassa, passa sopra una carcassa, chiama l'ambulanza e il giorno dopo come fosse niente la fa franca. Allora in alto le mani, restiamo fino a domani, se non ci danno spiegazione ai movimenti strani, quali da Pinelli a Giuliani, guardie infami, troppi casi aperti ancora fra le mani. Trovo pace solo con la gente mia, mi dà energia, scaccia la malinconia, meglio quando urliamo tutti insieme, fuck polizia, la mia filosofia è così sia. Trovo pace solo quando sono con la gente mia, mi dà energia, scaccia la malinconia, meglio quando urliamo tutti insieme, fuck polizia, la mia filosofia è così sia. Trovo pace solo con la gente mia, mi dà energia, scaccia la malinconia, meglio quando urliamo tutti insieme, fuck polizia, la mia filosofia è così sia. Trovo pace solo quando sono con la gente mia, mi dà energia, scaccia la malinconia, meglio quando urliamo tutti insieme, fuck polizia, la mia filosofia è così sia, così sia. Che il futuro che danno a me non è come lo vorrei. Il sole ha smesso di brillare da un po', la verità non ce l'ho, sembra sparita anche lei. E sembra inutile pregare se poi chi non ci guarda e non ci ascolta sono proprio gli dèi. L'inferno di cui tutti parlano, guardalo sta qua, welcome to the end of day. Sto mondo cade a pezzi, schiavi in ginocchio raccolgono i resti. La maggior parte ha già subito il lavaggio dei teschi, già condannati dai governi coi loro interessi, discriminati per un credo e colori diversi. Ci vogliono obbedienti da quando siamo bambini, le prime droghe potenti li chiamano vaccini. Le malattie che ti prendi stanno nei loro cibi, tagliati come l'ero in pezzi per fonderci vivi. I media mostrano violenza, sì ma di che guerra, vite che saltano anche senza mine sottoterra. Ti sei mai chiesto dove vanno quelle scie di merda? O pensi che sto meglio al gabbio per 3 grammi d'erba? Se la famiglia senza casa fosse stata tua, avresti ucciso per la strada coi niños de rua. Avresti fatto la puttana e dato il culo via, pisciando su questa cazzata dell'omofobia. La polizia che scende in piazza non ci va leggera, la gente mia che scende in piazza sta incazzata nera. Brucia le banche per la strada, questa è guerra vera. Non conta i morti di giornata nella tua galera. La terra trema, l'acqua è nera e pure l'aria pesa. Il cielo è scuro come il buco dell'ozonosfera. 2012 si avvera un'altra profezia, e prima che sia tardi il mondo ci spazzerà dall'anno via. Dall'anno 10 del nuovo millennio i panni si lavano meglio, i danni che stanno salendo, i nonni ce l'hanno predetto, saremmo parti di un disegno imperfetto, sommando i drammi degli inganni degli altri nell'ultimo ventennio, partendo solo dai soldi che sembrerebbe tutto. Hanno distinto 3 mondi che sembrerebbe un luto. Dal primo guardi l'immigrato come un farabutto, ma se venissi dal terzo ci resteresti muto. Ha mai sparato sul fronte? Hai mai contato le tombe? Hai mai provato ad ascoltare le bombe? Battaglie e sangue per un pezzo di pane, che quando poi ci scappa il morto è ricordato come un pezzo di cane. E tutto questo è manovrato dall'alto, filosofia del mio. Si scambia l'oro per il nome di Dio, di Dio. Ma un popolo non può difendersi nel nome di Dio, se con l'ipnosi di massa sparisce nell'oblio. Parlo di quale sarà la nuova comodità, la nuova pubblicità del nuovo gadget. E qua la comicità è che alla comunità si sa, restano i progetti low budget. E quando provi a sopravvivere c'è il manganello, ma l'importante qua è distinguere, ed è questo il bello. La differenza fra lo Stato e le guardie, fra la chiesa e le banche, fra chi è capo e le mandrie. Il mondo sta finendo, dimmi perché. Il futuro che danno a me non è come lo vorrei. Il sole ha smesso di brillare da un po', la verità non ce l'ho, sembra sparita anche lei. E sembra inutile pregare se poi chi non ci guarda e non ci ascolta sono proprio gli dèi. L'inferno di cui tutti parlano, guardalo sta qua, welcome to the end of day. The end of day, Smortal Wombat round 7. Questi erano i Roman Underground featuring Coetz, che ha preso un'altra strada ora dopo i Broken Speakers, che è sempre stato un po' melodico, sì. L'ha detto ai ritornelli. Io ti dirò, a me Coetz non è mai dispiaciuto, e comunque apprezzo anche chi prende un'altra strada, no, piuttosto, certo, che chi si vende. No, infatti, hai fatto le tue scelte anche stilistiche, a me piace, tipo. Però rimani comunque una persona vera e nei tuoi testi. E poi ogni tanto, capito, cioè esistono, no, cioè, non è che possiamo ascoltare sempre il boom bap, sennò le nostre teste scoppiano, quindi ogni tanto anche del qualcosa di un po' più tranquillino, come una birretta AKA di Mondeggi, live from Mondeggi, e che ci arriva qui e ce la sorseggiamo e ci godiamo la vita in questo odore. Ci godiamo la vita, salutiamo e ringraziamo anche Nio e Astro Kid, che grazie a voi che ci avete dato l'opportunità di farci sentire anche a qualcun altro dei nostri amici. No no, Dio buono. Tra l'altro, insomma, vabbè, dopo la diretta, quando si chiude la diretta, vi devo dire una cosa a proposito di serate, opportunità per fare un po' di rap live. Top, quindi top. Intanto vi salutiamo, grazie. Sì, mi hanno appena detto che uno di quei fatidici errori. Scusa, vabbè, sì, grazie. Grazie. No, comunque mi ha appena detto Sub-Zero che il mio intervento svalvolato di prima non c'era perché il microfono era spento. Ok. Allora continuiamo, torniamo a Roma. Sì, salutiamo i nostri ospiti da Florence e torniamo a Roma, dove ora invece la sbombardiamo un po' con Rancore. Parlaci un po' di Rancore. Rancore praticamente anche lui è il ragazzo della nostra età, dell'89, nato da padre croato e madre egiziana, e non si è ben capito come sia finito a Roma, no? È finito a Roma e comincia il suo percorso musicale nel 2004. Diciamo il suo primo album dal titolo Segui Me è del 2006, e nel 2016 ha fatto invece uscire Segui Me Remind 2006, che praticamente riprende tutti i suoi pezzi dell'album Segui Me e li ripropone. In più, in questo album ha aggiunto 6 pezzi, se non mi sbaglio, che aveva prodotto nel 2008 ma mai fatto uscire, ed è da questi 6 pezzi che siamo andati a pescare il prossimo pezzo, che è un pezzo che mi ha fatto conoscere una cara amica, e è una bomba di pezzo, ha fatto benissimo e ancora a farlo uscire, si intitola Rapper al rovescio, e che andiamo a mixare invece con un pezzo richiesto dall'assente Sub-Zero, un pezzo dall'album Sunshine EP del 2015, che è un progetto di Rancore con DJ Mike, con cui ha fatto diverse collaborazioni Rancore. E il titolo dell'album e il titolo del pezzo è Factotum. Ce l'hai di getone? Factotum. Dai, tu ne sei questa è fuori. Tu rispondi Otamo, hip hop Otamo. E quando dico hip hop tu rispondi Otamo, hip hop Otamo. E se dico Rancore voi non dite Rancore. E se dico Rancore voi non dite Rancore. Ok, giù le mani! La gente mi chiede perché mi porto questo nick, perché lo scrivo sempre appena tu mi dai una pic, perché nei miei testi io non parlo del mio kick e cerco di drogarmi respirando con la stick. Sono fortunato, non ho ancora il naso rotto, io c'ho la vaga idea che contro me ci sia un complotto. Vuoi essere carino? Peccato che sto bassotto, coi pantaloni larghi pare che me cago sotto. Questi pantaloni sono scomodi, la cosa buona è che non cade a terra la zuppa quando ti sbrodoli. Vanno sempre sotto le suole, c'è no due paia con le quali tutti i giorni ci pulisco via Capraia. Boni, aria, state buoni. Oh, ma tu sei Rancore? Sì. Ma hanno detto che stasera suoni? Sì, anche se sabato ci stanno i cartoni, ma il mio compito da rapper non usiamo paroloni. Io provo a spendere soldi a vestirmi fashion, però non ci riesco, non riesco a farla star. Sarà che per natura sono un rapper al rovescio. No, vale, azzibide, hai che l'opero. Io provo a spendere soldi a vestirmi fashion, però non ci riesco, non riesco a farla star. Sarà che per natura sono un rapper al rovescio. Tu leggi la rovescio, c'è sto venuto per rebar. Io non ho troie che mi stanno intorno, io ho 10 anni di seghe sopra i giornaletti porno. Ma quale rapper è un corno? Con la maglia con il logo di Rancore io ci dormo. Per ottimismo pessimo, io ci ho provato a parlare come un rapper, solo che sembro dislessico. E se rapper bravi sono sempre grassi, non è un caso, è per antitesi di me che sono lessico. Sto sregolato perché vedo un mondo grigio, perché sono malaticcio, eppure oggi sarò spiccio. Stanotte come ieri notte andrà tutto liscio, oggi come ieri ritorna alle 5 di pomeriggio. Un giorno mi hanno chiesto sì, per caso di che fa l'MC. Purtroppo gli ho risposto sì, per sbaglio ho fatto 2 CD. Sarà che ci ho provato a fare il writer, qui. Ho scritto ranco al posto della A, mi ci hanno scritto I. Lo sai, la break dance è spettacolare, almeno che non hai dei seri problemi di cervicale. Scratch con una puntina infilata nell'anulare, e i miei amici sanno fare solo beatbox anale. Io provo a spendere soldi a vestirmi fashion, però non ci riesco, non riesco a farla stare. Sarà che per natura sono un rapper a rovescio. Io provo a spendere soldi a vestirmi fashion, però non ci riesco, non riesco a farla stare. Sarà che per natura sono un rapper a rovescio. Tu leggi la rovescio e sto venuto per rappare. E tanto io lo so che la gente poi ci caschera, perché farò un video con una rapper maschera. Il produttore mio mi ha detto sei te stesso, a bassa voce gli ho risposto sì, così stai fresco. Presto! La rabbia si delinea se oggi finalmente esco con una ragazza che è carina. Dovrei mostrarmi rapper nel locale, ma niente, ciampo su una strana spina della corrente. Io non ho mai avuto una crew vera, io ci provo sempre ad indossare un new era. Mi fa la testa sfera e mi fa perdere i capelli. A sto punto era meglio se cambiavo stornelli. Cosa sa di più di legge un boss di quartiere? Che cosa sa di più sulle bandiere un banchiere? Che cosa sa di più chi insegna a fare preghiere? Di come si alza un bicchiere sotto a Gesù? Capelli fianchi lunghi, liberi, alto 1,70 m, 70 kg, gli occhi marroni, pigmenti verdi ai perimetri delle sue iridi. Beve due peperoni, entra nel bar, saluta i padroni, vedi incredibili certi fattoni, ma scemo se ridi di loro lo irriti. Sa che la legge sono equazioni, fisica vera per atti pratici, qui non ci sono interpretazioni, i criminali per i matematici. Sa che le negazioni portano a tentazioni, quindi le tentazioni portano interazioni che creano le relazioni. Da sempre sa che tutti i discorsi saranno monotematici, ma passerà 300 giorni l'anno a farci caso tra i calici. Vede che anche la chiave illusoria è data da movimenti dinamici e personaggi che in ogni storia portano forza agli apici. Tutti li cercano, tutti li vogliono, tutti li cercano, tutti li vogliono. Sono i factotum della città, sono i factotum della città. Quello che tutti non leggono, di loro stessi, loro lo sfogliano. Che sanno tutto della città, che sanno tutto della città. Cosa sa di più di legge un boss di quartiere? Che cosa sa di più sulle bandiere un banchiere? Che cosa sa di più chi insegna a fare preghiere? Di come si alza un bicchiere sotto a Gesù? Capelli neri di un nero deciso, alto 1,80 m preciso, dita sottili simili a missili, farebbero invidia a finissimi fili. Quattro figli all'estero, un quarto dei soldi rinvestono. Legge Plotino, Platone, Aristotele, Socrate, Sofocle, Eschilo. Conosce il perché della legge che per movimenti bancari si innesta, ma essendo un filantropo sa quale ruolo l'uomo sorregge. E sa che non sarà un potere infinito infilandolo ultimo a destra. Quale legge? Relatività, relatività della legge. L'amore fa muovere il sole, ma il sole è la terra è il fisco. Qualcuno contasse davvero il denaro sarebbe già morto in un fischio. Le masse non hanno capito, non c'è paradiso, non c'è Mefisto. C'è chi non è stato mai ucciso da tasse, ha visto il corpo di Cristo. La guerra dal via alle danze, alleanze tra gli stati. Le banche ora come le vene collegano bene gli apparati. Ma una forza non è mai sola, è la legge di dualità. Tra la pace e la brutalità, i soldi, il sangue dell'umanità. Tutti li cercano, tutti li vogliono, tutti li cercano, tutti li vogliono. Sono i factotum della città, sono i factotum della città. Quello che tutti non leggono, tutti loro stessi, loro lo sfogliano. Che sanno tutto della città, che sanno tutto della città. Che cosa sa di più di legge un boss di quartiere? Che cosa sa di più sulle bandiere un banchiere? Che cosa sa di più chi insegna a fare preghiere? Di come si alza un bicchiere sotto a Gesù? Capelli grigio, perla, tunica, l'unica sua particolarità è una piccola maglia sul viso, ma solo ad un metro da lui puoi vederla. Lui comunica, sa che lo spirito viaggia su altre misure, che vanno al di là delle tue malattie, delle tue momentanee cure. A casa due palchi, sette mosaici alternati da otto vetrate, 12 archi, quattro pilastri, re con il peso di 3 navate. L'uomo per essere tale deve lottare, ma non con le unghie, deve pensarlo, farlo segretamente, perché la bestia ovunque. L'interno e l'esterno divisi da tanto, troppo, il mondo era buono. Purtroppo ogni luce accesa era un lampo e noi pagheremo il tuono. Le parti di Dio trovate fuori in un bosone, le ombre di luce filtrata da questo rosone del Duomo creano una mappa dell'uomo. E c'è una cometa nel cielo, una porta di cui siamo noi portavoce. Non vuole moneta perché gli somiglia, sotto la testa una croce. Il mondo è corrotto da un mondo a due dimensioni, mondo visione, che distoglierà dalle tre dimensioni il concetto di professione. La gente non sa su che piano d'ascolto lui sente una confessione. La mente di questo regalo di Dio ricorda la confessione. Conosce i segreti di tante persone, dissolve coagulazione. Sa che è una quarta dimensione, reggi i pilastri della città. Tutti li cercano, tutti li vogliono, tutti li cercano, tutti li vogliono. Sono i factotum della città, sono i factotum della città. Quello che tutti non leggono, di loro stessi, loro lo sfogliano. Che sanno tutto della città, che sanno tutto della città. Che cosa sa di più? Di legge un po' sti quartiere, che cosa sa di più? Sulle banchiere un banchiere, che cosa sa di più? Chi insegna a fare preghiere, di come si alza un bicchiere sotto a Gesù? Yo, ancora il qui. Fit DJ Mike. Ancora il fit DJ Mike con questo il suo nuovo progetto di DJ Tone. E adesso, prima di salutarvi, vabbè, innanzitutto io direi una cosa generale, che stiamo parlando di Roma e domani a Roma c'è un convegno dei paesi, insomma, dell'UE. E quindi, insomma, ci saranno tante manifestazioni, ma manifestare contro questo convegno, e quindi ci sono un sacco di soldi pubblici spesi per la difesa di quei bastardi, cecchini sui tetti, allarmi terrorismo mediatico, ma a noi non ce ne fotte un cazzo e andremo comunque in piazza. E poi, vabbè, torniamo invece all'hip hop, che dal canto suo fa la sua guerra alle istituzioni, guerra allo Stato e all'autorità, e di conseguenza parliamo degli eventi che ci saranno di questa settimana, esatto. E cosa ci abbiamo? Ci abbiamo stasera l'Emerson Centro Sociale, c'è un evento dal titolo Exchange Jam che inizierà alle 9, ingresso di soli 3 euro, benefit per una realtà autogestita, niente va in tasca a nessuno. E cos'è questa jam? È una jam di breaking. Una jam di breaking, e poi ci saranno un live, o sbaglio, o dei Norway Tour, no, questi io penso siano Breaker dalla Norvegia, Torb De Roach e Stig P.A.A. Infatti sarebbe da fare un salto, che dite? Qui in sala abbiamo anche un parkourer che ha appena sgranato gli occhi e ha detto: merda, andiamo a vedere questi corpi, si prendono lo spazio. E dalle 22.30 invece ci saranno i concerti di area punk, chiamiamoli così. No, qui si mixano gli eventi oltre le canzoni, perché porca madonna, scusate. Perché invece domani sempre all'Emerson, grande Emerson che la spinge a palla, domani sabato 25 marzo abbiamo una pre-cena benefit organizzata proprio da Radio Womba, e ci saremo anche noi a mettere un paio di pezzacci. Esatto, ci sarà un DJ set corale dei DJ di Radio Wombat, quindi del nostro DJ Tone anche. E mi raccomando, ascoltatori, siateci e fate capire a tutti che il nostro programma spacca i culi più di ogni altro programma. Esatto, combattimento mortale tra programmi di Radio Wombat. E quindi dalle 19 venite all'Emerson, che finanziate il progetto Radio Wombat, finanziate Mortal Wombat e vi ascoltate buona musica, non solo nostra ma di tutti i DJ della radio. E poi, domani all'Emerson dalle 22.30 i concerti di Area Punk, che vi anticipava Burek. Esatto, i concerti dei punkers, ma insomma va bene, dai, ogni tanto concediamo anche ai punk di essere ascoltati, non solo ai b-boy. E invece il 29 marzo, ci tocca dirlo, anche se secondo me è un po' un'infamata dirlo. No, è un'infamata, infatti noi infamiamo questo evento e diciamo a tutti di non partire. Cioè, io sinceramente mi sento pubblicamente di dire boicottatelo, perché, cioè, vaffanculo. Perché alla festa di Udu, che è una, insomma, è praticamente il sindacato degli studenti della CGIL, e che hanno chiamato al Polo di Novoli mesi fa Caselli, che comunque è uno che si è sempre battuto contro i Notav, quindi insomma anche contro di noi, quindi giustamente sì. E insomma, questo strano collettivo ambiguo organizza una festa e ha chiamato Zulu dei 99 Posse, che non lo so, non voglio commentare, però partecipa alla festa organizzata da gente di merda, dal sindacato, la giovanile della CGL, insomma, in ambiente universitario. Ne facciamo a meno, mentre non facciamo a meno invece di salutarvi con un super pezzo e di ricordarvi che vi potete ascoltare, scaricare, diffondere il podcast di questa, io dico ottava, Burek dice settima puntata di Morte di Wombat. Vabbè, insomma, quella che è, sinceramente ce ne fottiamo, no? Ce ne fottiamo e andiamo a salutarvi con questa bonus track, una bomba del 2016. Bonus track in cui interverremo durante il ritornello, perché comunque è censurato su YouTube, ma noi su lo decensuriamo, no? Lo cioè, decensuriamo. Cioè nel senso, capirete. Esatto, è del 2016, le produzioni sono di DJ Crime, è un singolo prodotto per l'anno del... di quello che doveva essere l'anno del Giubileo. E Chef Ragù featuring Suarez e Danno strozza previa romana. Si sente già odore di ragù. Adesso il Giubileo con tutti i pellegrini in giro per sta Roma genuflessa, a caccia dei santini, a braccetto con sti preti, beccamorti e becchini che mettono le idee malate in testa ai ragazzini. Sto peccato originale che non si è mai capito come, e tutti sti fedeli in processione sotto il cupolone come brave pecorelle. Ed è un tour fra souvenir, crocifissi, menù fissi e bancarelle. Papa Boys pronti con i selfie, glorificano il regno dei cieli e l'obbedienza dei suoi servi, in fissa per miracoli e segreti che se fosse per loro qui saremmo ancora analfabeti. E invece vedi a me fra sto panico decente, eretico, blasfemo e miscredente, magari impopolare, ma mi viene da grattare le mie palle quando state con le palle del rosario da sgranare. Gli dice male al cardinale, oggi niente anelli da baciare, agnelli da sgozzare, a me non mi riguarda il tuo giudizio universale, prete, non me le bevo le stronzate sulla fede. Io mettevo Yoda nel presepe da bambino, adesso arrivo col cerino e chiamami Pasquino, fra il tedesco e la argentino, per me è sempre lo stesso, è solo un grosso vaffanculo e glielo recito in latino. Niente lo stesso Giubileo è tuo e mica il mio, per quello che riguarda me è sempre un colpio. E non del giorno, specialità nostrana, questa è l'osteria del Colle, strozza prete alla romana. Niente lo stesso Giubileo è tuo e mica il mio, per quello che riguarda me è sempre un colpio. E non del giorno, specialità nostrana, questa è l'osteria del Colle, strozza prete alla romana. Fedele alla mia donna, alla mia squadra, alla mia anatra addestrata, ma mai dato credito a sta buffonata. Dispiace per la gente raggirata, che per la disperazione c'è cascata e c'è rimasta aggrappata. Io dentro casa senza croce e Bibbia, solo cofanetti, statue, DVD, fumetti, vinili, pupazzetti, senza santi, nemmeno sul calendario. E come Rosci, il ciondolo di giga al posto del rosario. QG, mille preti che sui primi a ricoprisse d'oro, mille polemiche gli... In questa città occhi, sti giochi per farlocchi, so fuori dalla mia testa. Rasta musulmani, cristiani ed ebrei, tra chi pensa alla family e chi pensa agli dei. Io mi sento più family coi miei amici gay che coi pellegrini doti che affollano i Giubilei. Nato con vicino il colonnato, sono frutto del peccato, la castità non ha mai generato. In questa città l'orchide m'ha sderenato, forza di grattarmi palle ad ogni suora che ho incontrato. Lo dice anche Bennato, non farti cadere le braccia e sputa in faccia ai santi. Branchi di ignoranti tra i banchi la domenica, li frusto con il ritmo, le rime, la metrica, il flow che c'ho è punk rock, perciò fuck god, qui niente rap, alla viva il parroco. Sparo con sto pezzo immaginario durante la comunione, spezzo il pane con Valerio e Simone. Chi è te l'ho detto Giubileo è tuo e mica il mio, per quello che riguarda me è sempre tuo. Venuto il giorno, specialità nostrana, in cucina chef Ragù, scorsa prete alla romana. Chi è te l'ho detto Giubileo è tuo e mica il mio, per quello che riguarda me è sempre porco Dio. Venuto il giorno, specialità nostrana, in cucina chef Ragù, scorsa prete alla romana. Al Wombat tutti i venerdì live Radio Wombat dalle alla 17. Prossima puntata.